La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon pomeriggio questo giovedì 14 gennaio 2016, la nostra sigla, The Future is in the Air, è abbastanza appropriata perché la puntata è dedicata, ve lo dico subito dopo il consueto ringraziamento per l'ascolto e avervi ricordato l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it, è dedicata ai problemi del settore dell'auto, visto che tre notizie tra ieri e oggi hanno rialimentato in maniera e misura diversa, come vedremo, le prospettive di un rilancio della crisi della mega frode della Volkswagen sulle emissioni dei suoi turbo diesel, in particolare il 2000 e il 1006, che era esplosa, ve lo ricordate, mesi fa. E quindi diteci un pochino, siate voi clienti Volkswagen oppure no, chiamandoci l'800240024, a distanza dei mesi dall'emersione di questa gigantesca frode e alla luce delle tre cose che vi dico adesso, se pensate che è una crisi tamponata, è una crisi che è stata silenziata dalle case produttrici, dai regolatori e dai governi, oppure invece quale sia la vostra opinione. Quali sono le tre notizie che hanno fatto significativamente sobbalzare il settore tra ieri e oggi? La prima è quella relativa alla prima risposta che Volkswagen ottiene negli Stati Uniti da un regolatore sui temi proprio ambientali rispetto alla motorizzazione. Il regolatore della California, quindi non ancora quello federale, ieri ha respinto come irricevibile la proposta di soluzione del problema dei device tecnologici messi per truccare le emissioni di quei turbo diesel, l'ha respinta come irricevibile, distanza totale rispetto alle attese e quindi, cari amici della Volkswagen, qui in California su questa base non c'è una prospettiva di soluzione concordata per la vostra frode, preparatevi quindi a maxi richieste di sanzioni in California. Questa è la prima metà della notizia americana che riguarda la Volkswagen, perché la seconda metà è che tra pochi giorni, tra due settimane, il 2 febbraio, è il turno del molto più temibile, potente e significativo regolatore federale americano, l'EPA. E se anche EPA dovesse dire che le richieste di una soluzione concordata avanzate dalla casa di Wolfsburg sono inaccoglibili, beh, a quel punto la prospettiva per la Volkswagen di esporsi a multe e sanzioni di molti miliardi di dollari potrebbe significativamente accrescersi. Fino a questo momento la Volkswagen ha sì subito dei danni sui mercati, ma insomma più contenuti di quello che sembrava, tranne che sugli Stati Uniti ovviamente, più contenuti di quello che sembrava profilarsi quando lo scandalo emerse. E questa è la prima notizia. Seconda notizia, questa viene dalla Francia. Stamattina le agenzie diffondono la notizia di perquisizioni per possibili frodi anche qui sulla propulsione e le emissioni e i consumi dei motori in diverse sedi della Renault. E a seguito di questo il titolo perde fino al 20%, il titolo poi dopo la smentita molto decisa della Renault di essere coinvolta in frodi ha recuperato più di metà della perdita, ma comunque questa notizia ha rigettato nell'allarme il settore, perché ovviamente si tratta dell'eventualità di verificare che frodi come quelle della Volkswagen siano stati, come molti sospettavano, anche praticati da altri produttori e da altri produttori europei. Già la settimana scorsa, si è appreso oggi, si erano verificate ispezioni nelle diverse sedi della Renault che gli investigatori hanno deciso di approfondire con controlli aggiuntivi nelle fabbriche. E queste ispezioni sono ordinate dalla Direzione Generale dell'Energia e del Clima, che è l'interlocutore, per così dire, politico della Commissione Tecnica Indipendente, che per conto del Ministero francese dell'Ecologia si occupa di queste questioni, e la Renault ci ha tenuto a precisare che, fino a quanto emergeva la settimana scorsa, non si evidenziavano software truccati sui veicoli Renault. Naturalmente questa notizia, aggiungendosi al nodo regolatore federale della California alla Volkswagen, ha fatto precipitare il titolo della Volkswagen anche stamattina, che è arrivato a perdere più del 5%. Anche nel caso della Renault, le ispezioni francesi sono sulle centraline di gestione del motore, e pare che il motore sospetto della Renault sia il turbo diesel Energy 1.6, quindi 1.6 di cilindrata DCI, che è offerto in versione 130 e in versione 160 cavalli, e che è montato su diversi modelli Renault Nissan come l'Espace, la Qashqai, eccetera eccetera. Dopodiché, a seguito di questa seconda notizia, le agenzie hanno iniziato a battere notizie sul fatto che in realtà anche in Germania delle vetture Mercedes-Daimler, come la Mercedes Classe C, in quanto alleate e avendo produzioni per alcune parti congiunte con Renault-Nissan, potrebbero a questo punto rientrare nelle ispezioni, perché montano delle centraline che sono della stessa famiglia di quelle usate sui motori che sono al centro delle indagini in Francia. E questa è la seconda notizia. Terza notizia, che riguarda invece il gruppo Fiat Chrysler. Mentre è in corso una delle grandi fiere dell'auto mondiale a Detroit, la capitale storica dell'auto americana, stamattina la Bibbia di riferimento, il giornale che fa testo per l'automotive a livello mondiale, cioè Automotive News, dà notizia dell'emergere da parte di due concessionari americani di Fiat Chrysler di uno scandalo, perché i due concessionari avrebbero dichiarato di essere stati indotti a pagamento a truccare le cifre di vendita di Fiat Chrysler, accrescendole negli ultimi giorni di un mese per poi ricorreggerle nei primi mesi del mese successivo, di essere stati indotti a pagamento da parte della stessa casa produttrice. Poiché tutti noi che seguiamo giornalisticamente le vicende del settore sappiamo che Automotive News, Luca Ciferri, che è un italiano che è in primissima fila nella direzione del giornale per quello che riguarda la parte europea, non è un giornale scandalistico, ci siamo immediatamente grattati la testa, perché abbiamo immaginato che si possa, lo dico perché non ne conosciamo ancora i particolari, in attesa di un comunicato che è stato preannunciato da parte di Fiat Chrysler, però può essere una notizia di carattere sistemico. Voi capite che se sono 2, 3, 5, 10 concessionari di questo tipo è un conto, ma se emergesse, e non a caso avviene nei giorni della grande fiera di Detroit, che davvero le vendite americane, nel frattempo siamo arrivati al 69esimo mese consecutivo di crescita a doppia cifra delle vendite sul mercato americano di Chrysler, ma se dovesse emergere che siamo in presenza di prassi di truffaldine sulle quantità, è evidente che si potrebbe creare un grave scandalo a grave impatto non solo nel mercato americano, ma qui il problema Fiat Chrysler è un problema che ci interessa in prima fila. Già pochi giorni fa Sergio Marchionne aveva lasciato dichiarazioni significativamente diverse da quelle attese sui tempi più lunghi per il consolidamento. Si parlava dell'ipotesi di un'opa ostile addirittura entro fine anno, primi mesi del 2017, nei confronti di General Motors. Lui ha detto no, ma fino al 2018 non se ne parla. Ha fatto un'apertura abbastanza inconsueta rispetto al fatto che bisogna aprire una rivoluzione tecnologica delle automobili con i grandi produttori di tecnologia informatica americana, Silicon Valley, quindi Google e cose di questo genere, che è parsa un po' strana a molti osservatori, visto che sapete che Fiat Chrysler è molto indietro, non ha fatto la scelta per esempio della propulsione tutta elettrica, e quindi è stata concepita come una risposta offensiva, di dichiarazione di guerra verso altri grandi gruppi che scelgono la via di una propulsione ibrida o elettrica, mentre invece a quel punto Marchionne si è messo a parlare di tecnologie informatiche, autoguida, e cose di questo genere. Alla luce di questa delicatezza, voi capite che una guerra, tra virgolette, americana, sia dai confronti dei regolatori americani verso i produttori europei, ma anche l'aggiunta di un eventuale scandalo su Fiat Chrysler, sulle cifre di vendita negli Stati Uniti, potrebbe assumere una conclusione. Mentre fino a questo momento in realtà i regolatori europei e le case produttrici hanno tentato di circoscrivere i danni dello scandalo Volkswagen, perché non vi sarà sfuggito che tutti i governi europei e tutti i regolatori hanno adottato una strategia di contenimento del danno, per così dire, perché consapevoli di quello che l'auto rappresenta nei tossicchianti economia europea, a cominciare dalla nostra, dove l'auto è la componente di investimenti e aggiunta dell'export italiano l'unica a doppia cifra in tutta la manifattura. Ecco, mentre questa è stata la strategia di contenimento del danno, fino a questo momento potrebbe rimettersi in moto un meccanismo di guerra tra continenti sull'auto, i cui impatti anche sull'Italia potrebbero essere diversi da quelli che abbiamo immaginato all'inizio, quando abbiamo detto la crisi riguarda i tedeschi, la loro credibilità. Certo, sono a rischio i produttori di componenti italiani che lavorano per Volkswagen, c'è 1,5 miliardi della componentistica italiana solo a Volkswagen e circa 4 miliardi per tutte le case automobilistiche tedesche, però insomma magari Fiat Chrysler potrebbe addirittura guadagnarci. Ecco, queste tre notizie riaprono un problema serio. Per parlarne e per capire anche nel frattempo come giudicare le misure che sono state adottate di paese in paese per cambiare gli standard dei controlli, che erano evidentemente conniventi con le case produttrici, sia per i consumi che per le emissioni, lo avete capito, che erano controlli al banco effettuati dagli stessi produttori senza verifica su strada, sia per giudicare come la Volkswagen nei diversi mercati e anche in Italia intanto ha offerto ai suoi clienti di riparare la frode, e negli Stati Uniti, abbiamo chiamato con noi Enrico De Vito. Enrico De Vita, che è un tecnico esattamente di queste questioni, è un ingegnere che scrive per automoto.it, ha scritto per tanto tempo per Quattro Ruote. Io lo ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, Enrico De Vita. Buongiorno a lei, Giannino. Allora, posso chiederle, prima di entrare nello specifico, come giudica tutte e tre queste vicende? Sorpreso dal no della California alla Volkswagen, primo. Secondo, cosa pensa dell'eventuale coinvolgimento rilanciato dalle perquisizioni di oggi a Renault, e anche se qui è un'altra cosa, di questa storia dei concessionari Chrysler negli Stati Uniti? Allora, il no della California è normale perché in effetti Volkswagen non ha risposto a tutte le domande, cioè non ha detto esattamente cosa sarebbe avvenuto nelle prestazioni, nei consumi e vari regimi, ha detto io ho questa soluzione, e la soluzione che ha proposto è in effetti il massimo che si possa offrire oggi, ed è quanto adopera Mercedes BMW, cioè l'SCR completo. Perché questo? Spieghiamo che cos'è l'SCR. L'SCR è un catalizzatore riducente significa che oltre a ossidare completamente gli idrocarburi combusti, gli HC, il gasolio, la benzina, riduce gli ossidi di azoto, l'aria riscaldata e tramutata in ossidi di azoto, li riduce in azoto puro e CO2, anidride carbonica. Questi catalizzatori SCR selettivi hanno bisogno di un serbatoio separato, di una carica di urea, circa 15 litri di urea, qualcosa di simile all'ammoniaca o all'urina, che in pratica lavora molto bene sugli NOx, ma questo SCR è molto costoso, è stato messo a punto recentemente, ha una durata non eterna, consuma urea che costa 60-70 centesimi al litro e che fa fermare i motori nel caso in cui questo serbatoio supplementare rimanga vuoto. E la Volkswagen si è offerta di farlo a proprie spese a tutti i clienti? A tutti i clienti, nelle vetture nelle quali si può montare, perché molte vetture avrebbero bisogno di forare la carrozzeria, aggiungere un serbatoio supplementare, montare un iniettore supplementare di urea in questo catalizzatore. Morale, un lavoro che non vale la pena fare. Per cui Volkswagen, nelle vetture nelle quali non si può montare l'SCR, ha detto le ricompro. Nelle altre invece in cui si può montare, ha detto o si può modificare fino a renderlo completo, ha offerto questa operazione. Questo l'ha offerto in California, negli Stati Uniti o in tutti i mercati? No, questo ecco. Soltanto negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti già all'inizio nel 2008, quando si è introdotta la Volkswagen, e diciamo che le norme americane allora richiedevano una emissione massima di 30 milligrammi di ossidi di azoto, mentre l'Europa ne ammetteva 180, se volte di più. Quindi le soluzioni valide per l'Europa erano assolutamente non valide, non sufficienti per gli Stati Uniti. E questo spieghiamolo in ragione del fatto che in realtà i sistemi propulsivi più diffusi nei due mercati sono molto diversi. La quota del diesel negli Stati Uniti è trascurabilissima, da noi è una quota molto significativa, fino al 50%. E anche il rovescio, cioè nel senso che negli Stati Uniti un eventuale inquinamento da NOx diventava trascurabile perché non vale più del 3% il mercato diesel, non solo, ma non ne hanno di mercato pregresso, mentre noi in Europa abbiamo 30 anni di mercato diesel. Da noi però il limite era molto più alto. Questo perché? Perché il diesel nelle prove di Albanco soffre della emissione di quantità più elevate del motore a benzina, addirittura doppie e triple, di ossidi di azoto. Questo perché il motore diesel non ha farfalla nel collettore di respirazione, non parzializza l'aria quando gira piano. Il motore diesel non ha farfalla, quindi girando piano e bassi regimi come sono quelli delle prove al banco, aspira tutta la sua cilindrata. Il motore a benzina aspira molto meno, quindi produce molto meno ossidi. E questo comunque è, questi ossidi di azoto sono per i tecnici l'indice della performance del rendimento di una combustione. Più elevata la quantità di NOx che si producono, migliore è la combustione. Ora, cosa sono questi NOx? Sono questi ossidi irritanti per i polmoni, per l'asma, ma soprattutto in America, combattuti nel 1969-70, perché assieme ai vapori di benzina che uscivano dai grossi carburatori giganteschi delle vetture americane, evaporavano questi vapori e assieme agli NOx davano luogo allo smog fotochimico, cioè quel composto rossastro che si vede adesso a Pechino, ma si vedeva nel 70 sopra Los Angeles, e che è sparito. È sparito sia per i catalizzatori riducenti, che riducono gli ossidi di azoto, ma soprattutto perché sono spariti i carburatori dei grossi motori 8V americani, sostituiti dall'iniezione. Allora, Torniamo alla seconda domanda. Secondo. Seconda domanda è relativa al fatto della Francia, Renault. Ma era abbastanza... Allora, in Europa quello che è successo è che i costruttori hanno preferito per 30 anni, i cicli risalgono al 1970, certo, a valersi dell'ambiguità delle regole per certificare le emissioni. Diciamo che i regolatori e la politica sono stati ampiamente conniventi con i produttori. Non solo conniventi, ma diciamo che agivano su due terreni diversi. Insomma, una vettura oggi nella sua vita al massimo fa il 5% delle sue ore di vita, dei suoi minuti, nei punti del ciclo, diciamo a basso carico, a bassissima velocità. Tutto il resto viene al di fuori dei valori del ciclo, per cui i cicli fatti per dire alla gente il consumo è questo per 100 km non sono indicativi neanche per un po'. Ma lontanissimi, tanto lontani che gli stessi costruttori, con i quali ho parlato mille volte, erano dell'idea di doverli rifare. Aspetti un secondo, allora ci fermiamo qua per un minuto di informazione appunto stradale. La versione di Oscar. 16:50 primi, 38 secondi, tre notizie tra ieri e oggi hanno rimovimentato e rilanciato la crisi della mega frode Volkswagen sulle emissioni di diesel, il nodo regolatore in California, alle proposte americane, in attesa che il 2 febbraio capiamo l'EPA, il regolatore federale americano, cosa dica. Perquisizione alla Renault stamattina per analoghe ipotesi di accuse di frodi sui turbodiesel della Renault. Terzo, l'emergere di uno scandalo, non sappiamo ancora quanto esteso, su ipotesi di truffa sul venduto di Chrysler negli Stati Uniti. E con noi l'ingegnere Enrico De Vita ci ha spiegato non essere sorpreso del no della California e ci ha spiegato tecnicamente qual è il problema e cosa si è offerto di fare la Volkswagen però sul mercato americano, cioè di sostituire dove sostituibile, migliorare le emissioni attraverso l'SCR montandolo sui motori, o di ricomprare per i motori che non consentono la sua installazione. Ed eravamo al secondo punto, cioè l'ipotesi Renault, cosa più estesa, e vi stava spiegando come il regime di omologazioni al banco che in Europa, in qualunque paese europeo dei produttori, dava la certificazione di emissioni e consumi è una roba lontanissima dalla resa su strada reale delle automobili. Prego, David. qualunque automobilista sa che i consumi che lui misura sotto il suo piede sono terribilmente diversi, anche del 50% o del 100%, da quelli dichiarati nei cicli. Ma basti per tutti un esempio, cioè c'è una macchina stupenda che è la Porsche 918, che ha qualcosa come 870 cavalli, che sia ibrida, che elettrica, che a benzina, e che grazie alle, diciamo, alle concessioni, ai vantaggi e ai benefici che il ciclo di misura offre, può dichiarare che fa 3,4 litri, che consuma 3,4 litri di benzina per 100 km. Può non aggiungere che questo è stato misurato nel ciclo, che è lungo 11 km, per cui se l'ha fatto quasi tutto in elettrico, di benzina l'ha consumato poco, e che poca, e che poi estrapolando questo dato in 100 km viene fuori quel dato mirabolante. È legittimata a dirlo, e diciamo che l'informazione non... è caduta la linea? Queste mirabilie, ah, certo, che sono, si hanno già capiti, un po' truffaldine, insomma. Ecco, occorrerà rifare i cicli e rifarli meglio. Quello che è successo in Renault probabilmente è uno dei tanti episodi nei quali i costruttori europei potevano usare accorgimenti. Io ne ho già elencati una dozzina di accorgimenti che si usano al banco per poter ottenere valori stupendi, meravigliosi nei consumi e nell'inquinamento, e che vanno dallo spegnere condizionatore allo spegnere. No, chiarissimo, è già un mucchio di trucchetti che possono fare. La Commissione Europea a ottobre, fine ottobre, ricordo tutti che lo scandalo esplose a settembre, la frode Volkswagen, annunciò che dal 1 gennaio 2016 sarebbero entrati in vigore però sistemi di omologazione completamente diversi, e cioè su strada. Nel frattempo poi l'applicazione di questo annuncio si è perso. Lei che ci può dire? È che per adesso è previsto per il 2017, però posso dire che la fame di ambiente si è un pochino radicalizzata e i veri tecnici temono che concedendo ai regolamenti, per esempio, i 90 grammi di CO2, è una cosa che non è possibile con un motore termico. Se non, cioè, in realtà noi abbiamo praticato, grazie a metodologie di omologazione conniventi, dei livelli di abbattimento dichiarati che in realtà erano così lontani dalla realtà che in realtà adesso a volerli prendere sul serio significherebbero dei costi non sostenibili. Sbaglio? Due, a voler verificare se le vetture vendute rispettano quei parametri, mettiamo sotto processo tutte le case europee. E in tutto questo abbiamo dato pacchi di miliardi, avevo fatto un conto, oltre 15 miliardi in Europa negli ultimi 12 anni di incentivi alle tecnologie con meno emissioni, ma sulla base di questo compromesso, per così dire, non esplicito. Non solo, ma le case hanno accettato che venissero emanate di volta in volta nuove norme, Euro 4, Euro 5, Euro 6, sì, Rubbia aveva detto fermiamoci all'Euro 4. Perché? Perché alla fine diventa un sistema automatico per far rinnovare il parco. Meccanismo sostitutivo, come ovvio. Allora, sentiamo come la pensa Claudio da Milano. Claudio. Sì, buonasera. Buonasera. Ma, allora, io sono proprietario di una di quelle auto con il motore sotto accusa. Volkswagen? E hanno, sì. Esatto. La mia è una Seat col motore, però il 1600. A gasolio Volkswagen. E ha ricevuto a novembre, ho ricevuto una lettera del Volkswagen Italia che mi diceva, appunto, confermava che il numero del mio motore era uno dei motori, no, sotto, e che sarei stato ricontattato tra gennaio e febbraio per la rimappatura della centralina e eventuali. E sta aspettando o si sono rifatti vivi? No, sto aspettando che chiamino, Faccia conto che io ho comprato quest'auto, io faccio il tassista, per cui una delle scelte che mi ha portato, appunto, a prendere quest'auto erano anche i consumi poi dichiarati, tra l'altro, no, dalla casa madre. E ha verificato in realtà, che in realtà c'è una differenza del 20%. Del 20%. Allora, vediamo che cosa avverrà. Luigi da Taranto, invece, la sua esperienza? Chiudo Martina Franca, veramente. Prego. Che lei dovrebbe ricordare. Sì, la saluto, buonasera. Buonasera. Io anch'io sono un proprietario di una Volkswagen, anch'io ho ricevuto la lettera come l'ascoltatore precedente, solo che a differenza sua io non ho sulla lettera una dichiarazione dove mi si dice che verrò contattato tra gennaio e febbraio. Beh, sì. Mi si dice esattamente che il di tenere presente che questo avverrà, l'aggiornamento del software, nel corso del 2016. Quindi di un vago che mi lascia estremamente sorpreso. Benissimo. Nel frattempo, torno all'Enrico De Vita, i controlli a campione che aveva annunciato Del Rio all'indomani dell'esplosione del caso Volkswagen, in Italia, dico, si sono persi per strada anche quelli o sbaglio? Ma in tutto il mondo si sono persi per strada. Perché? Perché non valeva la pena farli, in quanto su strada io non verifico nulla di quello che ho provato al banco. Esatto. È talmente diverso il sistema. Esattamente così. Io volevo semplicemente che ce lo ricordasse, perché tutti coloro che sono in ascolto capiscano sulla base di quale compromesso noi abbiamo raccontato enormi storie che non stavano in piedi. E adesso il problema è che se le prendiamo sul serio ci sarà molto da pagare, e con un settore che è uno dei pochi davvero trainanti, anche per il caso italiano, occhio a cosa succede sui concessionari Chrysler negli Stati Uniti. Continuate sulla 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milano, attenti noi due.